voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Belle, stanno su dritte. Come ha detto, scusi? Le civette sono bellissime. Oh. Sì. Profumo di eclettica. Bunch of lippers. Your lipper. Bunch of lippers. We'll be right back. volta alla settimana facciamo un salto nel passato di Eclettica. Prendiamo la macchina del tempo e torniamo indietro. Abbiamo parecchi anni in cui saltare, vista la presenza di questa trasmissione dalla fine del 1994 ad oggi, sulle frequenze di Rock FM. E così, con questa scusa, andiamo a ripescare le perle del passato, i brani che erano presenti nelle playlist della trasmissione appunto negli anni già trascorsi. 1999, questo l'anno in cui siamo saltati all'interno del disco dei Looper intitolato Up a Tree, che conteneva ben tre brani che comparivano nelle playlist di Eclettica di quell'anno: Burning Flies, Festival 95 e Ballad of Ray Suzuki. Quello che vi siete ascoltati era Ballad of Ray Suzuki. Vi ricordo il nome del progetto scozzese, Looper. Joycat invece è il nome della band che ci stiamo per ascoltare, una band all'esordio per un'etichetta all'esordio. L'etichetta si chiama Pillowcase Records, la produzione esecutiva è dell'Estragon e anche all'Estragon di Bologna hanno avuto l'occasione di presentare dal vivo questa loro opera. Si chiamano Joycat, hanno avuto l'opportunità di aprire l'unica data italiana per ora degli After Hours nel 2007 presentando proprio l'inedito che ci ascoltiamo oggi, Plastic City. In questo libro abbiamo intenzione di registrare il materiale biografico che si è potuto trovare su Josef Necht, il ludimagister Josephus III, come è chiamato negli archivi del gioco delle perle di vetro. Non ci nascondiamo che questo tentativo è, o sembra, un poco in contraddizione con le vigenti norme e consuetudini della vita spirituale. Tanto è vero che uno dei supremi principi di questa è la soppressione dell'individualità, l'inserimento possibilmente perfetto della persona singola nella gerarchia dell'autorità pedagogica e delle scienze. Questo era l'incipit del Gioco delle Perle di Vetro di Hermann Hesse. Allora vieni a prendermi stasera alle 7.45. Sì, beh, no, prima devo sbrigare un paio di cosette. Perché non facciamo le 8 meno un quarto? Smettila. D'accordo, le 7.45. The National Election Commission says there are about 36 million eligible voters. Ballot in his first public appearance after being impeached. Voters were cast in two votes. One for individual candidates in 243 districts. It's the third multiracial elections in the country. 10 years into democracy, South Africans are looking forward to a better future. Voting started at 7 o'clock in the morning at nearly 17,000 polling stations nationwide. President Thabo Mbeki has served as the calling party leader. Call this day a great day. The Constitution Chairwoman, the President of the United States,

Il mio treno era appena arrivato a Baden e io avevo appena disceso con un po' di fatica ai gradini della carrozza quando già il fascino di Baden mi si faceva sentire. Mentre in piedi sull'umido marciapiede di cemento cercavo con gli occhi il portiere dell'albergo, vidi scendere dal mio stesso treno tre o quattro colleghi in sciatica, come appariva chiaro dalla trepida apprensione con cui stringevano le natiche, dal loro passo incerto e dalla mimica piuttosto smarrita e piagnucolosa che accompagnava i loro cauti movimenti. Ciascuno di loro, senza dubbio, aveva la sua specialità e il suo particolare tipo di sofferenza e perciò il suo speciale modo di camminare, di esitare, di incedere, di zoppicare e anche la sua propria inimitabile mimica. Eppure quel che dava più nell'occhio era ciò che avevano in comune. E io li riconoscevo tutti a prima vista come malati di sciatica, come fratelli, come colleghi. Questo era l'incipit della cura di Hermann Hesse. Eclettica. Stagione numero 13, settimana numero 32, volume numero 4. Indice. Alex Goffert, Arboretum, Beddoes, Matthew Herbert, Mavis Staples, Looper, Joycat, Disharmony, Muzak, So Long Cock's Name.